cosa farò. Di certo qui morirò, in quest'albergo di merda, non a casa mia. Braccio sinistro fa male, l'ansia scende e risale, lingua asciutta è partita la tachicardia. E adesso cosa farò? So certo che morirò, in questa stanza di merda, non a casa mia. La fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male, lingua asciutta è partita la tachicardia. È solo ipocondria. Questa mia nostalgia. Ma è solo ipocondria. Questa malinconia. Quando la sorte che bussa le porte ho l'ansia vitale, la sento più forte. Il cuore mi batte a tempo di morte. Ho una patologia. Adesso cosa farò? Son certo che morirò in questa stanza di merda, non a casa mia. Braccio sinistro fa male, l'ansia scende e risale, lingua asciutta è partita la tachicardia. E adesso cosa farò? Di certo qui morirò in quest'albergo di merda, non a casa mia. La fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male, lingua asciutta è partita la tachicardia. Solo ipocondria, questa mia nostalgia, ma è solo ipocondria, questa malinconia. La mia malattia è il nome che porto. Aspetta, riparti, va. La mia malattia è la tosse che porto. Dico sempre che l'ho presa ieri. Quante orecchie non reggono lo sporco. Ho le rime piene di batteri. Guardo questo cielo, tu non torni. Sei la mia malattia quando non mi chiami. Se ti dico che io muoio tra due giorni, forse ti vedrò un'oretta dopo domani. Siamo un gruppo di ragazzi strani, a volte ammalati, disinformati. E voi siete nati imparati, belli, perfetti, fermi, impalati. Bene, perfetto, sfido del nulla, tranne di un mucchio di insicurezze. Che a me mi accarezzano sin dalla culla. In mezzo alle urla, gic, gunda. Datemi ancora un aiuto, sono in punta di ansie che libero al volo. So che se poi morirò sarò muto. Pensavo di farlo in un po' di decoro, ma non lo farò a casa mia, anche se poi casa mia è grande al massimo come uno sputo. Eppure un dottore che grazie a me può pagarsi il mutuo, dicendomi solo che è solo ipocondria questa malinconia. Ma è solo ipocondria questa mia nostalgia. È solo ipocondria, questa mia nostalgia. Ma è solo ipocondria, questa malinconia. E ora... E ora legge Tasso. Lager Italia, o anche sicurezza, territorio, popolazione, di Bianca Bonavita. Se non fosse che l'Italia è stata ufficialmente decretata campo di concentramento e di sperimentazione, verrebbe voglia di tacere. Verrebbe voglia di tacere perché lo era anche prima, campo di concentramento e di sperimentazione. Solo che prima i cavalli di Frisia erano invisibili perché forse più occhi li avrebbero visti. Ora che di occhi in grado di poterli vedere non ce ne sono quasi più, possono infilzare l'aria con tutte le loro aguzze spire di metallo. Le pecore sanno che fuori c'è il lupo cattivo e si dimenticano del recinto. Il recinto le protegge perché il pastore le possa mungere e all'occorrenza mangiarsele. Ma questo le pecore non lo sanno, o forse sta loro bene così, perché il recinto in fondo è grande e l'erba che vi cresce è green, con un bel packaging senza olio di palma. Verrebbe voglia di tacere perché un po' le pecore se lo meritano il pastore, il recinto e tutto il resto. Avrebbe voglia di tacere perché da protettorato a zona protetta in fondo non cambia niente e degli eufemismi totalitari non ci siamo mai liberati. Avrebbe voglia di tacere per vedere fino a che punto si è disposti a farsi recintare, a farsi terrorizzare, a farsi movimentare e immobilizzare. Verrebbe voglia di tacere, perché in questi giorni la notte è più buia, il boato di morte e motori che sale dalla pianura più flebile, l'aria più buona. Avrebbe voglia di tacere perché magari un giorno l'assalto ai supermercati non avverrà più in file ordinate a un inutile e patetico metro di distanza, e magari le rivolte usciranno dalle carceri e si scoprirà che il vero stato di emergenza è proprio nascosto nell'occhio del ciclone dello stato di eccezione. Verrebbe voglia di tacere perché forse colui che trattiene si è stancato di trattenere, e magari come in un sogno, dopo le persone si fermeranno anche le merci, come se si potesse fermare le une e non le altre, come se fossero due cose separate. Le fabbriche smetteranno di fabbricare e gli uffici di officiare. I genitori riscopriranno quanto è bello crescere insieme alle loro figlie e non vorranno più rinchiuderle nelle scuole. E magari si fermeranno anche i server, i ripetitori e i satelliti. Avrebbe voglia di tacere per rivivere i propri luoghi senza turisti, per abitare finalmente i propri luoghi, senza l'ansia di dover essere sempre altrove per lavorare o per riposarsi dal lavoro. Avrebbe voglia di tacere per lasciare che muoia il turista che hanno impiantato in ogni persona. Eravamo pronte da tempo qui sulla collina. Ci sono damigiane di vino, taniche d'olio e sacchi di grano. Ci sono semi già germinati e semi da seminare, alberi in fiori e alberi da far legna. Avrebbe voglia di tacere per vedere le città esplodere e, finita l'ultima scatoletta da saccheggiare, vivere il giorno del giudizio qui sulle colline, quando si dovrà decidere se scannarsi per il pane o sedersi a mangiare insieme. Avrebbe voglia di tacere perché nuda vita eravamo, nuda vita resteremo. Avrebbe voglia di tacere del rispetto di chi muore ogni giorno per cancro da inquinamento, che nessun decreto d'emergenza ha mai fermato, da cibo industriale, che nessun decreto d'emergenza ha mai fermato, da vita di merda, che nessun decreto d'emergenza ha mai salvato, di chi muore per un cuore che si ferma troppo presto, di chi muore ogni inverno d'influenza perché è arrivato il suo inverno, da quando l'inverno si chiama inverno e gli alberi cadono le foglie. Avrebbe voglia di tacere per la confusione, il fumo negli occhi e fiumi di parole. Avrebbe voglia di tacere perché tutti hanno qualcosa da dire. Avrebbe voglia di tacere perché in fondo non conta niente se è un'influenza come le altre o meno, se è un attacco bioeconomico a Cina e Iran, un piano per affossare l'Italia o l'UE, un esperimento di riduzione della popolazione, un'esercitazione globale di una nuova fase dello stato di eccezione, l'inizio di una delle periodiche crisi di cui il sistema capitalista ha bisogno per rigenerarsi, o un complotto delle case farmaceutiche, o l'inizio di una nuova forma di guerra planetaria. Comunque sia, arriverà il momento in cui la Terra si libererà di noi e farà bene. Avrebbe voglia di tacere per tutti i dubbi che ci attraversano e anche per le certezze che alla fine ci restano, ma che alla fine ci fanno parlare. Avrebbe voglia di tacere se non fosse che l'Italia è stata ufficialmente decretata campo di concentramento e di sperimentazione, dimenticando che nel ghetto siamo tutti, che il ghetto è cintato, che fuori del recinto stanno i signori della morte e che poco lontano aspetta il treno, come diceva Primo Levi nei Sommersi e Salvati. A letto, tasso. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Thank you. E iniziano qua le dirette speciali di Radio Wombat. Buonasera a tutti e tutte, ascoltatrici e ascoltatori. Siamo a fare le dirette speciali del nuovo palinsesto Wombat in occasione del coronavirus. Allora dunque, questo è Bricco Baldo che vi parla da una tana nuova del Bombato, sì, perché forse l'avrete intuito, ma le tane sono molteplici e soprattutto sono variabili. Cambiano di giorno in giorno e visto che non ci possiamo muovere di casa, noi le facciamo ovunque. Naturalmente le difficoltà tecniche saranno qui ad accompagnarci come sempre e devo dire che la regia di stasera è un grande accrocchio, ma va bene così, abbiamo tempo per migliorare visto che la quarantena potrebbe durare un bel po'. Mi ricordo che ci potete scrivere, ci potete mandare contributi, scriveteci alla mail postawombat@insiberia.net, ce l'ho aperta qui davanti a me. Ascoltateci sullo streaming di wombat.noblogs.org. Si sente bene, mi dicono, dalla parte opposta dei microfoni, cioè alla radio. No, purtroppo vi devo dare questa notizia che le frequenze 1359 sono in quarantena, così come noi. Abbiamo avuto problemi tecnici e quindi ci potete ascoltare esclusivamente, sullo streaming, ripeto, come dicevo prima, wombat.noblogs.org. Potete scaricare l'applicazione per ascoltarci, quando non avete un computer e vi servite di uno smartphone, e ben presto anche le frequenze torneranno attive. Queste sono dirette speciali, abbiamo sentito l'esigenza di allietare le ore, i minuti, le serate, le giornate, speriamo che non siano settimane o mesi, degli ascoltatori e delle ascoltatrici, con notizie da Firenze, ma non solo. Nel caso mio inizierò con un po' di chiarezza sulla questione coronavirus. Abbiamo un'intervista, abbiamo un contributo via che ci è stato mandato da un'avvocatessa, l'avvocatessa Valeri di Brescia, che ci spiega a modino che cosa succede se viene fermato durante gli spostamenti e anche che cosa può succedere se viene fermato quando non dovresti essere fuori e quindi ci sono delle sanzioni. Ma il diritto è piuttosto vago, quantomeno non proprio il diritto, diciamo le regole in questo caso sono abbastanza vaghe e quindi c'è bisogno di spiegazioni. Lo faremo con un audio dell'avvocatis Valeri, ma anche attraverso alcuni articoli che io ho reperito e che magari leggeremo piano piano insieme. Il tempo a disposizione è tanto, quindi ci divertiremo. Sono un po' emozionato, se devo essere sincero, non mi capita spesso di andare in diretta da solo, ho sempre un sacco di compagni e compagne intorno, ma quest'oggi invece purtroppo sono qua, in solitudine. Quello che vi proporrò vedrà un po' qualche lettura di qualche articolo di fronte a me, due internazionali, le ultime due settimane, il tema, lo sapete, è coronavirus. Andremo a leggere alcuni articoli trovati su internet, ad ascoltare alcune cose, ma faremo anche qualche telefonata. Telefoneremo in particolare a compagni di resistenze. Abbiamo visto uno speciale carceri che è uscito qualche giorno fa su wombat.noblogs, e è uno speciale incentrato, a partire dalle rivolte che sono avvenute in tutte le carceri, comprese anche quelle toscane, ma va ad analizzare in modo più approfondito la situazione carceraria sotto vari punti di vista, principalmente sanitario, ma non solo. E quindi non solo loro, vi saranno anche degli altri ospiti, un collegamento telefonico da Piazza Tasso e dalle varie reti di solidarietà che si stanno creando. io nel frattempo ho anche preparato un po' di musica per voi, ho anche qualche pezzo incredibile che l'ho sentito tra l'altro oggi nella la musica ai tempi del corona. Abbiamo mandato in onda una fantastica playlist con una raccolta di tutti i pezzi che sono le canzoni a tema coronavirus che sono uscite sui social, e alcune sono veramente esilaranti. Si parte da Bello Figo per arrivare a una che vi proporrò, che è Cumbia Coronavirus. Spezza. Vi avverto fin da ora che potrei fare dei gran casini con questi aggeggi che ho qui davanti, perché è un grande accrocchio di fili. Non vi preoccupate, sono sempre qua. Partiamo dall'avvocata Valeri con la sua spiegazione. Ciao a tutti, sono l'avvocato Simona Veneri del Foro di Brescia e ho deciso, essendo un avvocato penalista, di fare questo file audio per tutti coloro che in questi giorni verranno fermati lungo le strade dalle pattuglie delle forze dell'ordine e si vedranno contestare questa fattispecie di reato prevista dall'articolo 650 codice penale. Per chi non mi conoscesse, sono la collega di studio e sono appunto l'avvocato penalista dell'avvocato Maurizio Sorrentino e su sua richiesta abbiamo pensato di fare questo file audio per chiarire alcuni aspetti. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 ha stabilito il divieto per chiunque di transitare lungo le nostre strade, soprattutto al di fuori del comune, ma anche all'interno del comune, se non per comprovate esigenze lavorative, di salute oppure di vita quotidiana. Comprovate cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto che devono poter essere dimostrabili. Parlo per quelli che vanno per dire al supermercato, lo dovranno dimostrare producendo alle forze dell'ordine lo scontrino. Per chi va in farmacia la stessa cosa. Per chi va al lavoro, se si tratta di lavoratori dipendenti, le forze dell'ordine, raccolte le informazioni circa il luogo di lavoro, potranno recarsi dal datore di lavoro e chiedere se effettivamente quella persona che loro hanno fermato lungo la strada si è recata al lavoro in quell'orario e insomma andare a verificare concretamente quelle che sono le dichiarazioni. Ecco quindi che il mio primo invito è quello di scaricare e stampare quell'autocertificazione che su molti siti, compresi anche social network, è stata in questi giorni pubblicata. È utilissima, la si deve completare in ogni sua parte e la si deve tenere in auto. Ovviamente l'invito, questo per il benessere comune di tutti, è quello comunque di stare a casa. Questo per uscire il prima possibile da questo incubo, sia lavorativo che economico, nel quale ci troviamo. Andiamo nel dettaglio della normativa. In questi giorni, pattuglie e posti di blocco fermano random, cioè in maniera del tutto casuale, le autovetture che passano sulle nostre strade, chiedendo le ragioni del transito e chiedendo la direzione. Nel momento in cui quel transito non dovesse risultare rientrante fra quelle esigenze di tutela, di tutela della salute piuttosto che appunto di vita quotidiana o lavorative, insomma nel momento in cui il transito non è essenziale, le forze dell'ordine procedono a identificare la persona, cioè gli fanno rendere dichiarazioni circa le sue generalità, gli fanno eleggere domicilio, quindi gli chiedono dove vogliono ricevere le comunicazioni che seguiranno, e questo è fondamentale che l'elezione di domicilio venga fatta presso la propria residenza, non presso lo studio dell'avvocato. E gli chiedono se hanno un difensore di fiducia da nominare, diversamente gliene viene nominato uno d'ufficio. Da quel momento le forze dell'ordine faranno comunicazione di notizia di reato per la violazione dell'articolo 650 del codice penale. L'articolo 650 prevede l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Di fronte a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che vieta la circolazione, il circolare corrisponde a inosservanza del provvedimento dell'autorità. Questo è una contravvenzione da non confondere con la violazione base del codice della strada, cioè il divieto di sosta piuttosto che l'eccesso di velocità. È una contravvenzione nel senso tecnico, cioè è un reato al pari di tutti gli altri. Vuol dire che da quel momento scatta un procedimento penale a carico della persona che viene fermata. Verrà di solito irrogata una cosiddetta ammenda. Non fatevi ingannare dal fatto che ammenda corrisponda a multa. L'ammenda è una pena prevista dal nostro codice penale al pari della reclusione e dell'arresto. Non va assolutamente pagata. È fondamentale. L'ammenda che viene data per violazione del 650 codice penale non va assolutamente pagata, perché il pagamento di quell'ammenda corrisponde all'esecuzione della pena e quindi va sul casellario giudiziale. Tradotto, da quel momento il soggetto non sarà più incensurato, con le conseguenze anche poi dal punto di vista della vita successiva lavorativa, concessioni, autorizzazioni, appalti. Il soggetto dovrà, nel caso, produrre, se richiesto, il certificato del casellario giudiziale sul quale ci sarà scritto che lui non ha rispettato un provvedimento di una pubblica autorità. Non ci sarà scritto che era per il Covid-19, ci sarà solo scritto che lui è una persona già condannata definitiva per non aver rispettato un ordine di una pubblica autorità, il che potrà danneggiarlo successivamente. E allora che cosa bisogna fare? Nulla, in realtà. Bisogna contattare immediatamente il proprio avvocato di fiducia, se lo si ha, o l'avvocato d'ufficio, ai recapiti che le forze dell'ordine ovviamente daranno. A quel punto bisognerà aspettare semplicemente la notifica che arriverà nei prossimi mesi del cosiddetto decreto penale di condanna. Arriverà quindi una notifica in busta verde o in consegna diretta, quindi in notifica diretta da parte delle forze dell'ordine territorialmente competente, di un atto che si chiama decreto penale di condanna e che proviene dalla procura e dal tribunale di Brescia. Quel decreto penale di condanna lì dà un termine di 15 giorni per opporlo e per trasformare quell'ammenda in una, attraverso un sistema che si chiama oblazione, in una somma da pagare che a quel punto, e solo una volta trasformata con l'opposizione al decreto penale di condanna, allora permetterà l'estinzione del reato. Per riassumere, se venite fermati, se non date la giustificazione corretta e quindi vi vedete contestare il 650, contattate immediatamente il vostro avvocato o l'avvocato d'ufficio che vi viene assegnato. A quel punto non pagate assolutamente l'ammenda, ex 650, aspettate insieme al vostro avvocato la notifica successiva del decreto penale di condanna, che dovrà essere contestato chiedendo l'oblazione, e solo una volta concessa l'oblazione e pagata la somma di denaro che sostituirà l'ammenda inizialmente data, si procederà all'estinzione del reato e rimarrete incensurati. It comes to me, plain to see. Allora, intanto mi scuso, si trattava dell'avvocata, avvocatessa Veneri e non Valeri. Piccolo refuso, pardon. Questo naturalmente per non è che Radio Wombat vi invita ad uscire e ad andare a giro tranquillamente, ma come spiegava l'avvocatessa, può succedere che attraverso l'autocertificazione non si diano le giustificazioni giuste e dunque si incorre in procedure penali. È l'articolo 650. Anche perché, andando un po' a approfondire, non l'ha fatto l'avvocatessa, ma lo faremo noi attraverso un articolo, andando un po' a approfondire, si capisce che questi decreti non sono per niente chiari in merito alle conseguenze che possiamo trovare nell'infrangerlo. Io vi suggerisco, e quello al quale mi sono rifatto io, poi fondamentalmente, un articolo comparso su Jacobin Italia, comparso comparso ieri, in verità, un articolo di Luca Casarotti che analizza fondamentalmente il testo dei DPCM sul coronavirus. Nel frattempo, in sottofondo, sentite una playlist inviataci da Pusherman. Dicevo, Luca Casarotti, e l'articolo si intitola L'emergenza per decreto. Abbiamo tanto tempo, quindi preparatevi, sarà una lettura abbastanza lunga. Appunto, un giudice analizza il testo dei DPCM sul coronavirus, che sono dispositivi che mirano a produrre effetti psicologici prima che effetti giuridici. L'indeterminatezza delle proporzioni rischia di aprire il campo alla discrezionalità del potere. Questo fa parte naturalmente di una serie di riflessioni che sono uscite sul diario virale di Wu Ming. E però Luca Cesarotti ritiene necessario riprenderlo e ampliarlo per proseguire il discorso su come uscire collettivamente dalla paura. Prende in analisi i DPCM, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, promulgati l'8, il 9 ed infine anche quello dell'11. Lui inizia per spiegare questa cosa qua. Prendendo in esame alcune delle norme più rilevanti. Dice che il decreto dell'8 marzo avrebbe contenuto soprattutto raccomandazioni e inviti. Quel DPCM puntava cioè a tentare di persuadere più che a prescrivere. Si sta parlando del primo decreto, quello che ha indetto le zone rosse in Lombardia, in Veneto e in altre province. Lui parte la disposizione fondamentale, che è quella dell'articolo 1,1, lettera A, e dice: evitare ogni spostamento delle persone fisiche, ... salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. Lui intanto fa notare l'innecessaria ripetizione del sostantivo spostamenti, che non è il punto. Il verbo evitare, che è uno di quelli che non ci si aspetta in una norma giuridica. Se qualcuno mi dice di evitare di fare qualcosa, non mi sta imponendo di non farla, mi sta suggerendo di non farla. Quindi io potrei fare lo stesso, disattenendo l'invito a evitare. E ancora, lettera B, si sta parlando sempre dell'articolo 1,1. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante. Anche qui fa notare che l'italiano zoppica, mette insieme contatti e contattando, ma di nuovo non è questo il punto, dice. Il punto è che la disposizione esprime una forte raccomandazione, ma nessun comando. Per questo ho definito il decreto un provvedimento retoricamente orientato. La retorica, buona o cattiva che sia, è la tecnica che serve a persuadere, mentre la norma giuridica solitamente esprime un comando o un permesso. Si dirà, e appunto, e questo si dirà, mi è venuto anche a me da dirlo, che cosa c'è di male? Voglio dire, meglio così, no? Meglio una soft law di una hard law, cita lui. Di sbagliato, però, dice che c'è questo, che l'indeterminatezza delle proposizioni lascia spazio alla discrezionalità e a forme coercitive non immediatamente decifrabili. A decreto appena pubblicato, infatti, sono sorti quesiti sulla sua applicazione, in particolare su come si sarebbero controllati gli spostamenti delle persone e su quali sarebbero state le sanzioni per chi si fosse spostato senza giustificato motivo. A riguardo, già nella giornata di domenica, il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare in cui è scritto che spetta ai prefetti disporre, ancora ai prefetti, disporre posti di blocco per fare controlli a campione, che i controllati devono autocertificare le ragioni del loro spostamento, e che quelli ritenuti ingiustificati sono punibili ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, come ci diceva l'avvocatessa Vaneri. Chi violasse il divieto assoluto di spostamento previsto per le persone in quarantena dall'articolo 1,1 lettera C del DPCM, aggiunge la circolare, potrebbe commettere anche il delitto di cui all'articolo 452 del Codice Penale. Con la direttiva ministeriale ai prefetti rientra dunque dalla finestra il diritto penale solo all'approvata, all'apparenza cacciato dalla porta con gli inviti e le raccomandazioni del DPCM. In realtà è lo stesso DPCM all'articolo 4,2 a richiamare l'articolo 650 del Codice Penale e dice: salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, come è previsto dall'articolo 3,4 del decreto legge del 23 febbraio 2020. Questo articolo, l'articolo 650, punisce la trasgressione a un provvedimento legalmente dato dall'autorità, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, che non dobbiamo pagare nel caso immediatamente, nel caso ci venga fatta. Nella prassi, poi, la pena irrogata per questa contravvenzione è praticamente sempre quella pecuniaria. Pena che con il procedimento di oblazione, vale a dire quando si paga spontaneamente senza attendere la sentenza di condanna, è ridotta alla metà. Però, come diceva l'avvocatessa, andremo incontro a sporcheremo la fedina penale. Detto cosa prevede sull'articolo 650, dovremmo tornare a breve parlando del decreto del 9 e dell'11 marzo, perché fino ad ora abbiamo guardato quello dell'8 marzo. Intanto appuntiamoci che, anche solo stando alla lettera del DPCM, non rientrano nell'ambito sanzionatorio le raccomandazioni e gli inviti contenuti nel decreto. Quanto al fatto che la circolare ministeriale menziona l'articolo 452 del Codice Penale, l'informazione ha avuto il suo ruolo sull'alimentare la paura, diffondere inesattezze anche gravi. Chi trasgredisce il decreto rischia la reclusione fino a 12 anni, così scrive Il Sole 24 Ore. Ma le cose non stanno assolutamente così. Perché? Luca ci mette proprio, ci spiattella qua l'articolo 452 del Codice Penale, che dice che chiunque commetta per colpa alcune dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito 1. con la reclusione a da 3 anni a 12 anni nei casi per i quali, mi viene un po' da ridere, le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte. Quindi nel caso il codice penale prevedesse la pena di morte in Italia, cosa che è stata abrogata già nel 1944, rischierebbe fino a 12 anni, però questo il Sole 24 Ore se l'è scordato. L'articolo 2 dice, con la reclusione da 1 a 5 anni nei casi per i quali essi stabiliscono l'ergastolo, e 3 con la reclusione da 6 mesi a 3 anni nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione quando un commesso per quello bla bla bla bla bla bla bla. Quindi la reclusione dai 3 ai 12 anni è prevista solamente nel caso in cui c'è la pena di morte. Però ecco questo errore. Quindi diciamo che poi la pena massima nel nostro caso può essere di 5 anni. Quindi a monte dell'errore giornalistico specifica c'è una circolare ministeriale che si richiama all'articolo 452 in maniera molto impropria. L'intento del Ministero è di evocare il timore della sanzione penale per chi, con un comportamento colposo, contribuisce al rischio di propagazione dell'epidemia. L'articolo 452 infatti rimanda, come dicevamo prima, all'articolo 438, che punisce il pericolo di causare un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Ma il reato di epidemia non è affatto stato pensato per i comportamenti a cui il Ministero vorrebbe applicarlo, seppure nella sua declinazione colposa. Il manuale del diritto penale dice che il reato, la ratio in questo caso, questa fattispecie sconosciuta ai codici precedenti, è stato introdotto dal legislatore del 30 in base alla considerazione che l'evoluzione scientifica ha, almeno teoricamente, incrementato la possibilità di procurarsi colture di germi patogeni al fine di provocare e diffondere epidemie. Quindi il colposo vuol dire aver sviluppato praticamente e introdotto volontariamente dei germi patogeni in una comunità. Insomma, nulla a che vedere con violazione dell'isolamento imposto dalla quarantena. Teniamo oltretutto conto che l'articolo 438 punisce chi causa un'epidemia, come dicevo, e chi può ora con solo quindi è una situazione assolutamente assurda, perché voglio dire, in Italia l'epidemia è arrivata da almeno 2 settimane, e quindi non è che vai a punire una persona che non ha l'autocertificazione perché ha causato l'epidemia. Vabbè, comunque esatto, sì, appunto, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ora, a ogni divieto corrisponde una sanzione, e in questa disposizione la sanzione non è espressa. Qui si sta parlando dell'assembramento, va bene? Quindi, sì, l'assembramento di persone. A ogni divieto corrisponde una sanzione, e in questa disposizione la sanzione non è espressa, il che, in primo luogo, ne rende oscura la comprensione ai destinatari. Una disposizione scritta in questo modo contiene un unico messaggio. Sappiamo tutti che esiste un divieto. Dunque, ottiene ancora una volta un effetto retorico-psicologico, ancora più che pratico. Nella logica dell'emergenza, lasciare aleggiare lo spettro di un generale disagio senza precisarne confine induce paura. A proposito di retorica ed ideologia, dato che ogni retorica è la traduzione verbale di un'ideologia, non sorprendono che nel governo, nella maggioranza così come nell'opposizione, tutti erano tranquillamente d'accordo con le parole e hanno utilizzato, pronunciato, scritto la parola zona rossa come se niente fosse. Ma tornando al divieto d'assembramento, la convinzione generale è che, in mancanza di una sanzione espressa, chi lo trasgredisce sia punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Questo invece non è affatto sicuro. Alcuni giuristi, quelli più lucidi, più svegli, se ne sono accorti, e la norma del codice penale, lo abbiamo visto, punisce la trasgressione ai provvedimenti legalmente dati dall'autorità, come si legge nel commissario, nel commentario bla bla bla, il divieto di assembramento è generale e astratto. Vale cioè per tutti i soggetti tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico e riguarda una situazione ipotizzata in via preventiva nel decreto, non casi verificatisi in un dato luogo e in un dato momento. Generalità ed astrattezza, cioè le caratteristiche della norma giuridica, sono l'opposto di individualità e concretezza, che sono invece le caratteristiche del provvedimento. Quindi, quella che pone il divieto assoluto di assembramento è senza alcun dubbio una norma giuridica. La violazione delle norme giuridiche, per opinione unanime, non è sanzionata dall'articolo 650, e che l'inosservanza di una norma giuridica può essere repressa solo con la sanzione della norma stessa eventualmente stabilita, dovendosi concludere in mancanza di previsioni sanzionatorie che la disposizione non sia obbligatoria. Quindi, e il divieto di assembramento, che, ripetiamolo, è posto da una norma giuridica, non solo non richiama l'articolo 650 del Codice Penale, ma non prevede nessun'altra sanzione per i trasgressori. Quindi, le denunce per violazione dell'articolo 650, che hanno cominciato a fioccare, sono quasi certamente completamente infondate. Identica l'interpretazione che si deve dare al DPCM dell'11 marzo, il decreto che impone la sospensione di alcune attività economiche ma non prevede sanzioni per l'inosservanza. Qui nel DPCM dell'11 marzo, dice Luca, colpisce anche un altro aspetto, l'enorme distanza tra il suo effettivo contenuto e le parole d'ordine con cui politici e media lo hanno propagandato. Se lo slogan bipartisan che ha prima chiesto e poi salutato l'adozione è stato "chiudiamo tutto", niente di simile emerge dalla lettura del decreto. Interessante. Interessati dalla sospensione, infatti, è una parte del terziario, mentre tutti gli altri settori è raccomandata o prescritta la continuazione delle attività. La sera dell'11 marzo, dopo il discorso del Presidente del Consiglio in diretta in TV e social, abbiamo potuto accorgerci della discrepanza tra piano della propaganda e piano dei fatti. Da un lato, i media amplificavano il plauso trasversale agli schieramenti politici che ha accolto le parole di Conte, dall'altro, fuori dalla bolla mediatica, c'era la paura di tutti e tutte noi. Librai indipendenti preoccupati per le conseguenze della chiusura, figlie di titolari di piccoli negozi in pensiero per i genitori, lavoratrici e lavoratori, la maggior parte per i quali la produzione non si ferma al dispetto dei rischi. Un divieto paradigmatico che mostra chi il potere chiama a sopportare il peso dell'emergenza. Davvero? Siamo così approssimativi? Con tutto sto casino tirato su? Mica sarà intenzionale, vero, questa cosa? Ci avranno riflettuto bene? Chissà, chissà. A me colpisce una cosa, di tutto questo. In generale, di... è un po' anche... lo accenna. Colpisce tantissimo, di nuovo, questo bipolarismo negli eventi che ci ritroviamo nei tempi contemporanei. C'è chi dice assolutamente rispettiamo e invece chi se ne catafotte categoricamente. Per fortuna invece c'è anche qualcuno che con un approccio un po' critico sì, rispetta le indicazioni date, che sono importanti. Stiamo vivendo un'emergenza sanitaria, siamo un paese di vecchi e vecchie fondamentalmente, e quindi il rischio è assolutamente elevato. Vediamo un po' anche intorno a noi quello che sta succedendo, quindi effettivamente non si può negare uno stato d'emergenza, però l'approccio che dobbiamo avere è comunque critico, chiederci anche il perché e il per come vengono fatte alcune cose. Anche un altro articolo che è uscito sul Manifesto il 26 febbraio, e quindi voi direte è vecchio, eh sì, c'avete ragione, è vecchio, però alcune cose interessanti secondo me c'erano, anche discutibile, poi erano i tempi che correvano. Si intitola, il titolo è lo stato d'eccezione provocato da un'emergenza immotivata. Non focalizzatevi su emergenza immotivata, focalizzatevi sullo stato d'eccezione. Il sottotitolo dice: coronavirus, la paura dell'epidemia offre sfogo al panico. E in nome della sicurezza si accettano misure che limitano gravemente la libertà, giustificando lo stato di eccezione. È un tema che anche su una parte della stampa è stato trattato in modo ampio, perché non è cosa da poco, ma lo approfondiremo più tardi, soprattutto con articoli che parlano della situazione cinese, dove lo stato d'eccezione è stato veramente, veramente eccezionale. Comunque, sul Manifesto, Giorgio Agamben fondamentalmente parla, dice: innanzitutto si manifesta ancora una volta la tendenza crescente a usare lo stato di eccezione come paradigma normale di governo. Il decreto legge, subito approvato dal governo per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, si risolve infatti in una vera e propria militarizzazione dei comuni e delle aree nei quali risulta positivo almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione, o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio di virus. Quindi lo stato d'eccezione l'abbiamo visto molto spesso, lo stato d'eccezione veniva fatto dal nostro caro amico Bertolaso, invocato a gran voce alla guida di una protezione civile che allo sbando, secondo qualcuno. Ecco, quelli sono gli stati d'eccezione: terremoti, calamità e via discorrendo, ma ultimamente sono molto molto frequenti. Lui addirittura non ci mette dentro solamente lo stato di eccezione, ma dice che l'altro fattore non meno inquietante è lo stato di paura che in questi anni si è evidentemente diffuso nelle coscienze degli individui e che si traduce in un vero e proprio bisogno di stati di panico collettive, al quale l'epidemia offre ancora una volta il pretesto ideale. Così, in un perverso circolo vizioso, la limitazione della libertà imposta dai governi viene accettata in nome di un desiderio di sicurezza che è stato indotto dagli stessi governi e che ora intervengono per soddisfarlo. With me and be no good. Be a madman. E non ci fermiamo qua, vorrei veramente legato a questo tema dello stato d'eccezione, vorrei citarvi un altro articolo comparso sul web, sul blog di Romolo Capuano, e lui cita un articolo che risale a circa 30 anni fa di un sociologo che è Philip Strong, che attraverso un articolo che si chiamava proprio Epidemic Psychology coniò il termine di psicologia epidemica per porre l'attenzione sul fatto che le epidemie non sono un fenomeno che interessa esclusivamente la medicina, la fisiologia e l'epidemiologia, ma anche la sociologia e la psicologia, e che le conseguenze psicosociologiche delle epidemie hanno un impatto forte sulla società, al cui interno esse circolano, tanto che si può a buon diritto parlare di epidemie psicosociali. Per la precisione, secondo Strong, la psicologia epidemica genera almeno tre tipi di epidemie psicosociali, e qui ci ricolleghiamo un po' all'articolo precedentemente citato. La prima è definita epidemia della paura, epidemic of fear. La seconda invece epidemia delle spiegazioni e delle moralizzazioni, mentre la terza è l'epidemia dell'azione o dell'azione proposta. Come afferma Strong, ogni società interessata da una forma vigorosa di psicologia epidemica può, di conseguenza, sperimentare al tempo stesso ondate di panico individuale e collettivo, improvvisi sussulti di interpretazioni relative alle ragioni per cui la patologia si è manifestata, raffiche di controversie morali e di strategie di controllo in conflitto fra loro, finalizzate o a contenere la patologia o a controllare le ulteriori epidemie di paura e dissoluzione sociale. È facile riscontrare queste tre forme di epidemia psicosociale nell'attuale fenomenologia sociologica del coronavirus. Innanzitutto, a dispetto della relativa pericolosità e mortalità finora provocata dal virus, timori, ossessioni, irrazionalità dilagano con prepotenza, generando condizioni mentali prossime alla paranoia. Questo articolo risale a qualche giorno fa, quindi forse oggi l'avrebbe anche un po' aggiornato, però effettivamente ancora i dati, diciamo quelli più attendibili, danno una mortalità sicuramente maggiore rispetto alle influenze precedenti, alle influenze diciamo comuni, ma non ha un tasso elevatissimo. Questi studi, questi dati poi magari li citerò più avanti. E, come dicevamo, timori, ossessioni e irrazionalità dilagano con prepotenza, generando condizioni mentali prossime alla paranoia, comportamenti sproporzionati al pericolo effettivo, come svuotare i supermercati, ad esempio, fare incetta di mascherine e via discorrenti, crisi di nervi collettive. Si spiegano così le aggressioni ai cittadini cinesi a Torino, le continue bufale sui virus, che sarebbe nato in laboratorio nell'ambito di un programma segreto di armi batteriologiche, sarebbe stato creato da un istituto di ricerca inglese e via discorrendo, sarebbe stato predetto già nel 2012 e via discorrendo. Comunque un'epidemia di paura, spiega Strong, è anche un'epidemia di sospetti. Vi è la paura che io possa contrarre la malattia e il sospetto che tu possa averla già e passarla a me. Paura e sospetti si accompagnano spesso a processi di stigmatizzazione e di ricerca del capro espiatorio. Nel caso del coronavirus, lo stigmatizzato per eccellenza è il cinese, il nuovo untore, loro lo citano così, ma si può dire anche l'italiano a questo punto, visto che in Europa siamo i più ammalati di coronavirus. Ma anche chi viene dalla Cina oppure da altre zone rosse o non si adegua alle misure di prevenzione stabilite dall'autorità. Infine, la paura è il panico legittimo, quello che appunto dicevamo prima, nello stato di emergenza, si giustifica con gravi limitazioni dei movimenti e la sospensione del normale funzionamento delle condizioni di vita e di lavoro di intere regioni. Parallelamente a questa epidemia di paura si è sviluppata un'epidemia delle spiegazioni e delle moralizzazioni, in cui spesso le spiegazioni contengono già forti riferimenti morali. Si va dalla condanna delle tradizioni alimentari cinesi, considerate inaccettabili e disgustose in Europa, al sospetto nei confronti di piani complottistici di volta in volta attribuiti ad americani, israeliani, cinesi, russi e via discorrendo. Il ruolo della massoneria o di Bill Gates, che orchestrerebbero lo spopolamento del mondo in questa fase, quindi un sacco di fesserie. Infine, l'epidemia dell'azione o dell'azione proposta fa sì che governi, amministrazioni pubbliche, enti di vario genere, persone comuni, si adoprino perché qualcosa venga fatto, indipendentemente da ciò che viene fatto. Colpisce, ad esempio, la frenesia e l'attivismo di molti amministratori pubblici comunali e regionali di aree non interessate dal virus, che emanano ordinanze, delibere e decreti a ritmo industriale per fare qualcosa o forse per non essere poi accusati di inerzia. Si pensi inoltre che l'uso massiccio di mascherine protettive, nonostante la loro utilità parziale nella vita quotidiana, un gesto che forse ha più un significato simbolico, antropologico che pratico, si considera infine l'assalto a farmacie, pronto soccorso e ospedali da parte di chi ha il minimo sospetto di aver contratto il virus e il contemporaneo omnipresente invito a stare lontani da negozi e quartieri cinesi. Secondo Strong, tuttavia, la conseguenza sociale più dirompente della psicologia epidemica è sulla routine quotidiana. Queste, infatti, vengono sconvolte dal corso degli eventi, che impongono l'abbandono delle vecchie abitudini, l'acquisizione di nuovi comportamenti, l'instaurarsi di nuove forme di relazione, aspettative, stili di vita e, in casi estremi, continua, dice che virus, patologie sconosciute, terremoti, uragani hanno tutte le capacità di sovvertire il senso di ordine, fiducia e stabilità su cui sono fondate le nostre esistenze. Affinché questi fenomeni non diano luogo a epidemie psicologiche, è necessario recuperare un nuovo senso di ordine, fiducia e stabilità, al di là di ogni panico o isteria di massa. Non è facile. Si potrebbe iniziare non dando per scontata la stabilità delle nostre vite e facendo nostre la nozione che virus, terremoti e uragani fanno parte della quotidianità e non rappresentano l'incarnazione dell'apocalisse. La fonte, ripeto, è Philip Strong, con una pubblicazione del 1990, Epidemic Psychology, a Model, pubblicato con Sociology of Health and Illness. E questo è quanto, diciamo, quanto mi interessava a dirvi, per poi arrivare agli successivi articoli che andrò a leggere, andrò quantomeno a sfogliare, ma nel frattempo mi sa che ho parlato anche troppo, e infatti vi mando un pezzo del che si chiama Apocalypse. chocolate. Go and sneak us through the river's flood is rising up on your knees. Oh, please. Come on, haunt. Culture e autogestione, appuntamenti irresistibili dalla punta.org, in diretta ogni lunedì alle 16.30 con repliche il martedì alla stessa ora e il giovedì alle 13 naturalmente su Radio Wombat. Chi lo sa, quel che di bello c'è in città lo trovi sulla punta. Ah, la canzone che avete sentito era Apocalypse The Cigarettes After Sex. Bene, bene, e questo un po' Apocalypse ci riporta a scenari apocalittici che tutto sommato basta uscire di casa e lo vediamo. Oddio, in verità basta uscire di casa, dipende dove. Io ad esempio non abito più in città. E nonostante ci sia passato giusto ieri in città, perché un giro velocissimo in bicicletta, lo assicuro, senza fermarmi da nessuna parte, senza parlare mai con nessuno, e ho visto un Firenze in come non è mai, già, non mi sarei mai immaginato di vederla così, effettivamente vuota, soprattutto il centro storico vuoto e tutto sbarrato, cosa un po' diversa si può dire per le periferie, grandi code ai supermercati, dove addirittura, comunque sempre rispettando la distanza di sicurezza, la presunta distanza di sicurezza, però sì, grandi code ai supermercati. In periferia un po' diverso, le persone già, probabilmente perché ci abitano semplicemente più persone, qualcuno a giro c'era. In campagna, dove sto io, invece si vede un sacco di persone a camminare da sole o in coppia, Ma veramente, veramente una cosa mai vista. Sembra che le persone siano tornate a vivere nei luoghi che invece solitamente sono dei dormitori, di lavoratori che scendono in città tutto il giorno, tornano a dormire e poi le campagne vengono di conseguenza abbandonate, trasandate e oltre che privatizzate e incancellate. Mi scrivono, aspettate un attimo, queste sono cose importanti, magari sono i miei volumi e fanno schifo. E infatti alzo un po' la voce perché non la sentite, abbiamo uno staff qui dietro non proprio, in remoto, che però ci informa su tutto quanto succede. Ricordo, se vi siete sintonizzati adesso, siete su Radio Wombat e state ascoltando la diretta speciale che ogni sera va in onda dalle 19 alle 21, io andrò un po' lungo probabilmente, spero... Mi dovrò un attimo velocizzare, ma quando inizio poi è difficile. Anche perché ci sono ancora diverse cose, no? Parlavamo dello stato d'emergenza, parlavamo poco fa dello stato d'emergenza, di queste norme che vengono giustificate, privazioni estreme della libertà. Ma da dove arrivano queste norme? Allora, io sto di fronte a me ben gli ultimi due internazionali e vorrei semplicemente citarvi un articolo, anzi due articoli, uno comparso che è sull'internazionale della settimana scorsa, un articolo di esattamente comparso su Science di Kai Kumpfenstramitz e John Cohen, che parla del metodo cinese. La Cina ha rallentato la diffusione del Covid-19, ma con misure che ignorano le libertà civili, spiega un rapporto dell'OMS. Fondamentalmente, che cosa è successo? È successo che a fine febbraio l'OMS è entrata in Cina non da sola, nel senso che ha mandato un'equipe di ben 25 scienziati, di cui una metà cinesi e una metà invece internazionali, a vedere come la Cina ha reagito e come è riuscita a contenere l'epidemia, perché effettivamente l'ha contenuta. Hanno fatto un giro di tutti gli ospedali, hanno visto tutte le procedure, hanno visto che è stato fatto un ottimo lavoro, almeno fino adesso, dal punto di vista della contenzione dell'epidemia. Però quello che fanno notare è che l'unica cosa che è stata totalmente ignorata sono i diritti umani. I diritti umani che poi spiegherò un po' meglio, però fondamentalmente in vastissime zone, in vastissime aree della Cina è stata imposta una quarantena totale, cioè tutti in casa, poteva uscire solo una persona una volta a settimana a fare la spesa dopo averlo segnalato, e così effettivamente hanno ridotto drasticamente i numeri di contagiati. Come hanno fatto a fare questo? Perché non è così facile fare un controllo su popolazioni di milioni, decine e decine, se non centinaia di milioni di persone. Loro si sono aiutati attraverso delle applicazioni, fondamentalmente. E qui già l'articolo del metodo cinese lo citava. Ma allora, l'ultima cosa che volevo dirvi su questo articolo è che precisa il fatto che sì, le misure messe in campo sono state efficaci, però per ora non si sa se al togliere queste misure il coronavirus riprenderà la sua impennata. Però appunto, andando poi all'internazionale di questa settimana, vi cito un articolo comparso su Trow, che è un mezzo di informazione dei Paesi Bassi, articolo di Heifer Ramslow, che si intitola La privacy o la vita. La privacy o la vita spiega... Per liberare decine di città dalla quarantena, le autorità cinesi usano le app attraverso cui controllano lo stato di salute, i movimenti delle persone e le loro interazioni. Fa una breve storia di una persona che racconta, e poi c'è un capitolo intitolato La liberazione. La liberazione è arrivata attraverso il programma Yakasma, che vuol dire sei sano in cinese, sviluppato dal gigante tecnologico Alibaba, sotto la supervisione, fra virgolette, delle autorità. I residenti di Wanzhou, devono riferire se hanno la febbre o se sono raffreddati, ma il programma riceve anche dati da aziende che raccolgono informazione digitale. Sul verdetto pesano, per esempio, gli spostamenti recenti. Un codice rosso è assegnato a chi proviene, a chi proviene dallo Hubei e potrebbe essere infetto. In questo caso, in questo caso si deve rimanere a casa per 2 settimane e dare un paio di aggiornamenti quotidiani sulle proprie condizioni attraverso DingTalk, un'estensione di Alipay. Chi è entrato in contatto con persone infette si vede attribuire un codice giallo fin da subito e deve rimanere a casa per 7 giorni. DingTalk ha delle antenne invisibili, dicono, il telefono di una persona raccoglie informazioni anche da quelle circostanti. Cioè, se voi siete a firma a un semaforo e è vicino a qualcuno con il codice giallo, il suo codice può cambiare colore. Il funzionamento del programma non è del tutto chiaro. Il codice è aggiornato ogni 2 ore circa e non sempre in tempo reale. Quindi a volte è successo che magari in un secondo momento, quindi gli incontri fatti possono rivelarsi pericolosi, va bene? Quindi esco solo per comprarmi da mangiare, però questo può non essere sicuro, perché se magari passi accanto a una panchina e c'è uno che ha un codice rosso o giallo, te lo becchi anche te. Eppure, dopo 3 settimane di isolamento, il sollievo a Wenzhun è tangibile. Il cielo è grigio, soffia un vento freddo, ma lungo il viale ci sono coppie che passeggiano. Le macchine attendono in coda ai semafori, i ristoranti, bla bla bla, quindi siamo tornati a una sorta di normalità. Agli incroci gli striscioni, normalità non proprio, agli incroci gli striscioni esortano a non credere alle dicerie e soprattutto a non diffonderle. Da un altoparlante montato sul tettuccio di un'auto si raccomanda di non uscire di casa se non è necessario. Tutti devono indossare la mascherina. Ci sono gli addetti alla sicurezza che controllano l'applicazione per entrare addirittura nei condomini e stessa cosa appunto per entrare nei supermercati, nei negozi e via discorrendo. La crisi si è fatta sentire fortissima e dice che nello Zhejiang più di 50 milioni di persone, quasi il 90% della popolazione ha più del 50% della popolazione ha fatto richiesta fondamentalmente di avere le applicazioni, questa applicazione. A circa 1 milione di loro è stato assegnato un codice giallo oppure rosso. Quindi il codice è praticamente obbligatorio in alcune zone, mentre a Pechino e Shanghai averne uno per il momento è solo consigliato. Le autorità si affidano a questi programmi per togliere decine di città dalla quarantena, ora che il pericolo di contagio è fuori dall'Hubei, si è ridotto. Dati sensibili. Allora, il sistema solleva alcuni interrogativi. Le sorti di queste persone, per esempio, sono nelle mani di un potere invisibile. A chi possono rivolgersi gli abitanti di Wenzhun se gli è attribuito giustamente un codice giallo? Chi ha accesso a queste informazioni? Circolano molte storie di proposito, come quella di un conoscente della persona intervistata, che era in macchina da solo, quando all'improvviso il suo codice è passato da verde a giallo. Aveva forse sorpassato un codice giallo? O forse il suo telefono aveva fatto contatto con un'antenna in una zona a rischio? Sui social network qualcuno si chiede se sia giusto affidare ad un'azienda privata una tale responsabilità. La domanda che ci poi l'articolo continua e comunque fondamentalmente quello che mi chiedo io, che ci chiediamo noi, che si chiedono in tanti, che sono quantomeno sono chiesti, ma queste misure che sono risultate apparentemente efficaci in Cina, è possibile applicarle in stati che non hanno un apparato statale come quello cinese, cioè un apparato capace di schierare nelle strade l'esercito e di dare la pena di morte a chi è contagiato ed esce di casa? Naturalmente la risposta non è semplice, non è semplice, perché a così a cazzotto mi verrebbe di dire, da dire di no. Però, quanto letto su Jacobin, l'articolo che leggiamo, il primo articolo che leggevamo, insomma, ci fa capire un po' che la direzione è quella. Poi l'Italia, chiaro, non ha attuato misure repressive, anche perché forse gli conviene non attuare misure troppo repressive, rischierebbero, il popolo cinese è, diciamo, culturalmente abbastanza suddito del governo e tende a obbedire a quello che il governo dice, mentre sappiamo che gli stati europei non è proprio così. Ora l'Italia non è che sia questa grande patria dei rivoluzionari, però insomma altri stati europei abbiamo visto che hanno delle reazioni e dei tempi di reazione un po' diversi. Comunque, sempre su Internazionale di questa settimana ci sono diversi articoli, fra cui un articolo molto discutibile di Slavoj Žižek, che evoca un nuovo comunismo per salvarci, evoca un nuovo comunismo ma senza andare a minimamente a parlare di capitalismo e di anticapitalismo, ma non solo, ci sono elogi al metodo italiano. C'è chi dice che l'Italia è un esempio da seguire, c'è chi dice invece che l'Italia è assolutamente un esempio da non seguire, e quindi ancora di nuovo ci si divide tra sì e no, senza alcuna scala di grigi. Articoli sulle vite sospese, quindi l'abbandono delle routine. Ecco, questo è l'articolo che è l'articolo di copertina, le nostre vite sospese, fa un po' ci porta un po' all'attenzione il fatto che questi stati di emergenza stanno diventando veramente molto, molto frequenti. Ora, siamo qui col Covid-19, ma non, cioè, comunque abbiamo visto che ci sono state c'è l'epidemia di SARS, quindi ci sono già altre epidemie in corso, e c'è stata l'emergenza climatica. Oggi si parla di eventi sportivi rimandati, ci stupiamo, ma non ci scordiamo che l'anno scorso in alcuni paesi sono stati rimandati per gli incendi, ci sono inondazioni sempre più frequenti e sempre più forti, ci sono di tutto, tifoni e eruzioni di vulcani, quindi in un certo senso la Terra si sta ribellando. Fa comunque notare che le epidemie a volte fanno anche cose buone. Lui cita in particolare l'epidemia dell'influenza che avvenne immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1918, che fece probabilmente più morti della Prima Guerra Mondiale, e precisa che in quell'occasione fu lo stimolo principale alla creazione dei servizi sanitari pubblici in diversi stati, soprattutto parla della Gran Bretagna. Detto questo, non vorrei dilungarmi troppo, quindi magari io vi mando un altro pezzo. Dovrei aver finito tutte le cose che volevo dirvi, più o meno. Non vi disconnettete, perché comunque si va avanti, anzi ci sono voci da Firenze su quello che sta succedendo, anche su chi si sta attrezzando per fronteggiare questa emergenza. E quindi io intanto vi mando una delle una chicca, dai, ve la sentite. E volvió el sabor con Mister. Con la cumbia del coronavirus, todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar para ponernos las pilas. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus. Usen desinfectante, ese es muy efectivo. Anche le foche bevono Radio Wombat. Coronavirus. Abbiamo, come già detto, messo su una playlist, anzi hanno messo su e ce l'hanno mandata uno dei fantastici contributi che ci sono arrivati in questi giorni, e devo dire sono molteplici e che dire, cioè, bellissimo. Continuate tutte e tutte a inviarci materiale, noi lo utilizzeremo, riempiremo il palinsesto di questi giorni e siete tutti e tutte benvenuti. Basta che ci scriviate a postawombat@insiveri.net, riceverete le istruzioni per come fare a mandare dei file e poi riceverete anche le indicazioni sul quando andranno in onda. Ci sono arrivate un sacco di letture, ad esempio potete dilettarvi dalle letture, barzellette, playlist, articoli, trasmissioni intere, chi più ne ha più ne metta. Quindi l'invito è sempre e comunque a come essere, a farsi coinvolgere, a entrare nell'autogestione, perché lo sapete, Radio Wombat è una radio autogestita, autocostruita, autofinanziata, non dipende da nessuno, noi facciamo e diciamo quello che vogliamo, naturalmente nel rispetto di tutti e tutte, ma godiamocela sta musica. Anche questo è un contributo che ci è arrivato, il buon Pusherman dall'Irlanda ci ha mandato delle fantastiche playlist che io ho deciso di utilizzare come sottofondi, soprattutto perché sono lunghe, sono playlist di 45, 20, 20, 30, 45 minuti e io avendo, sto facendo la regia con un Nokia 3310 e per forza di cose sarebbe un casino andare ogni volta a selezionare la canzone, quindi perfetto, grazie Pusherman. Eh sì, il buon vecchio Nokia 3310, di sicuro le applicazioni di Alibaba su questo non ci vanno, io mi sento abbastanza al sicuro, nessuno può geolocalizzarmi, almeno credo. E che bello, sì, decisamente questa della privacy è un po' l'argomento che ho toccato negli ultimi articoli, ma sono cose che a me stanno veramente molto molto a cuore e... questo, niente, poi guarda, allora, sul piano, venendo a Firenze, E venendo anche un po' ai contributi che abbiamo ricevuto e mandato in onda su Radio Wombat, abbiamo l'Assemblea di Resistenze, che è un'assemblea fiorentina, ha fatto delle interviste sulla situazione carceraria e delle rivolte in tutti i carceri d'Italia. Poi noi più vicino siamo stati toccati da quelle di Prato e un abbozzo di rivolta a Sollicciano. Però intanto, scusate, mi scrivono. Saluti dal Contado intanto. Ciao Contado, è un piacere. Sono nel Contado anch'io, non a Frittole naturalmente, ma anch'io dal Contado. Ok, allora facciamo così, Borda, ma vaffanculo 3310 mi arrivano. no, caro Shippuden, questo non si fa, questo non si dice. Molto, molto cattivio. Va bene, mi dicono che comunque devo muovermi. Allora, inizio con la prima telefonata, perché veramente io poi starei qui. Ormai sono partito, stare qua ad ore. Buono, allora prendiamo uno dei due Nokia che ho e compongo il numero. E poi voi sentirete la magia dell'accrocchio. Dell'accrocchio. Eccoci, infatti, vedi? Mi sono scordato il numero. Vediamo se lo ritrovo. Intanto ascoltatemi un po' di musica. Andiamo a chiamare, vediamo se ci rimettiamo in contatto con Resistenza. Pronto? Pronto, buonasera. Oh, ciao, buonasera. Mi senti? Io sì, ti sento. Ok, perfetto. Guarda, è complicatissimo, però stranamente funziona tutto. Devo tenere solamente il telefono sotto il culo, perché sennò senti un sacco di telefoni, di suoni strani. Comunque, andando a noi, parliamo di Resistenze, perché abbiamo passato in questi giorni il primo dei contributi che Resistenze mette in onda. Si parlava di carcere. Allora, iniziamo dall'inizio. E se ti vuoi presentare, ci vuoi dire un po' che cos'è Resistenza, che storia, com'è nata e come si è evoluta anche. Sì, io sono Xina, una militante di Resistenze, e Resistenze nasce fondamentalmente più di un anno fa come rete cittadina di mutuo soccorso in difesa delle autogestioni nel territorio. Nasce dal tentato, da un'emozione quando si trovò a far passare una mozione per sgomberare la polveriera a spazio comune, e riunendosi, diciamo, in difesa della polveriera contro questo sgombero, si è creata una rete, un noi collettivo che, diciamo, è andato anche oltre la possibilità, diciamo, di passare dall'essere una rete che si porta solidarietà in caso di repressione, ma proprio al poter analizzare e organizzare collettivamente, diciamo. Saltata la linea. Mi scuso, è saltata la linea, richiamo immediatamente. Nel frattempo vi rimetto un pelino di musica, facciamo così. Ve l'ho detto che non era semplice. We'll be right back. Non solo non era semplice, ma mi si è proprio scaricato il telefono. Bene, ci riproviamo. Eccoci qua. Si è spento il telefono e se è scarico, quindi è proprio colpa mia. Allora, dicevamo, Resistenze si è formata in seguito al tentativo di sgombero di uno spazio e quindi la prima necessità era quella di portare aiuto e solidarietà. Esatto, diciamo da questo è nato un po' proprio sentimento di necessità, diciamo, di creare poi un noi reale, un noi che alla fine quello che ci siamo detti è che viene percepito come unitario dalla controparte, no? Gli spazi autogestiti, le occupazioni collettivi che da chi ci è nemico vengono visti tutti insieme, tutti sullo stesso piano, e noi invece internamente abbiamo proprio come caratteristica quella di non riuscire mai a trovare una sintesi. Ecco, da questo e dalla consapevolezza, diciamo, che contro uno sgombero la barricata più resistente che possiamo costruire, diciamo, sono le relazioni che riusciamo proprio a intessere con il territorio e le lotte, c'è stato un po' il desiderio di attivare anche mobilitazioni quanto più, diciamo, cittadine, delle risposte proprio collettive cittadine a momenti particolari come può essere stata l'invasione da parte della Turchia dei territori del Rojava dell'ottobre scorso, o a tematiche cittadine, diciamo, proprie della realtà di Firenze come la gentrificazione tramite, hanno fatto dei carnevali, degli approfondimenti sul tema. E quindi, diciamo, fondamentalmente la voglia è quella di dotarsi di un immaginario collettivo, cioè la resistenza è come la capacità di una risposta immediata e come moltiplicatore di energie che i singoli spazi portano sempre in atto nei singoli quartieri. È una rete di spazi e di persone singole che si è dotata di strumenti comuni e condivisi come il calendario online della punta.org, il blog, la stessa Radio Wombat vuole essere parte di questo percorso, e la forza di avere degli ODG, degli ordini del giorno collettivi e cittadini. Penso che la risposta che si sta provando a dare al coronavirus, all'emergenza coronavirus in questo momento, ne sia un buon esempio. Ecco, appunto, parlaci di questa cosa, perché ho visto che avete, c'è un comunicato che parla di tante cose, ma poi c'è anche un rimando un po' al mutualismo, no? La disponibilità di aiutare le persone che stanno intorno a noi, a voi. Spiegaci. Sì, io quando, insomma, siamo ritrovati a discutere, a parlarne ancora prima, diciamo, che scoppiasse effettivamente come adesso la situazione di emergenzialità, la necessità e la voglia era quella proprio di, diciamo, siamo in un momento in cui vengono alla luce, vengono a galla tutta una serie di falle già presenti in una situazione di crisi persistente al virus, e siamo davanti all'esplodere di contraddizioni. Quindi la voglia che diciamo, la voglia di questo percorso è quella proprio di questo momento in cui siamo, è quello di approfondire tutto ciò che sta venendo, che è messo in luce da questa crisi emergenziale. Quindi prima fra tutti il sistema sanitario, la svalutazione della sanità pubblica, e indagarne le cause e le ragioni che l'hanno resa così debole di fronte a un'emergenza come questa. Dall'altra c'è la situazione lavorativa, la situazione un'Italia messa in ginocchio dalla mancanza di turisti, e che cosa questo ci suggerisce, diciamo, sulla nostra economia. Penso a Firenze, la città di Firenze sia emblematica da questo punto di vista, il collasso vuota dell'economia, vuota completamente, ma soprattutto in grave difficoltà, perché basa tutto sulla turistificazione. Sì, fra l'altro io mi permetterei di dire una cosa sulla turistificazione, perché stiamo sempre a parlare, gli alberghi sono chiusi, come faranno gli albergatori? Diciamo che intanto, ora, poi questa è un'opinione mia, come faranno i lavoratori degli albergatori? Non ci scordiamo che molti lavoratori nel settore del turismo hanno contratti a chiamata e quindi non si pone neanche il dubbio sul come fare, semplicemente non vengono chiamati e poi siamo arrivati a delle tutele. Vediamo lavorare le fasce più vulnerabili, dai rider, appunto, quindi sì. Prego. Sì, esattamente. Il lavoro precario legato alla turistificazione è più emblematico, infatti in questo momento è proprio messo in ginocchio e dimostra la sua, intanto il suo essere totalitario e dall'altra essere, scusami, e dall'altra appunto quanto sia flessibile questo tipo di economia. E Un altro tema su cui sicuramente ci siamo concentrati e non dobbiamo farlo perché è stato, diciamo, è la parte carceraria dove i detenuti hanno portato all'attenzione le loro condizioni in più di 30 carceri in tutta Italia e con un bilancio nelle rivolte dei morti abbastanza, insomma, importante. Si parla di 14, forse 15 vittime all'interno di queste rivolte. La voglia fondamentalmente è quella di rispondere a un momento di crisi collettiva, di un momento di emergenza, come una collettività. Quindi anche la voglia di scardinare questo sentimento di egoismo che si è indotto dalla paura ma che non può portare da nessuna parte, con un sentimento di collettività, cioè la voglia di urlare a gran voce dalle crisi che esce tutti insieme non se ne può uscire in altro modo, e ancora non vogliamo essere noi di nuovo a dover pagare per questa crisi. Sì, questo è un grosso rischio al crollo dei mercati finanziari. Vabbè, a parte che assistiamo da anni agli ultra ricchi della Terra che progettano e si fanno costruire navicelle spaziali per poter andare da un'altra parte, però fondamentalmente le grandi potenze di questo mondo hanno già iniziato a convertire le azioni in oro, e quindi è vera questa cosa. Effettivamente poi alla fine chi la pagherà questa, chi pagherà il prezzo di questa crisi sanitaria? Noi. Chi lo pagherà questo? Chi mai? Però è un momento anche sicuramente interessante per riragionare sulle cose, per riragionare sui modelli economici, per riragionare sui modelli sanitari, andare a indagare quali sono per esempio prendo la sanità, andare a indagare quali sono le cause che hanno portato a un indebolimento della sanità, qual è il sistema sanitario nazionale di oggi, e ripensarlo alla luce di un suo fallimento, cioè con poter avere in mano proprio la prova provata che alcune cose sono fallimentari perché viviamo dentro sulla nostra pelle, e poterle rimettere in discussione per il futuro. Quindi, diciamo, come si dice, noi nel comunicato si parla di costruire gli anticorpi a questo coronavirus, quindi l'anticorpo, no, che è quella quella un pezzettino che si viene a creare in risposta ad un antigene, ad una virus che si infetta il tuo corpo e che rimane poi nel corpo per proteggerti sulla lunga durata. Ecco, l'anticorpo al coronavirus può e deve essere un cambio di modello sociale ed economico, politico. Bene. Allora, senti, dici un po', intanto, se avete un contatto di resistenza, un blog sicuramente, un contatto mail e anche un giorno di assemblea, e magari quando passa l'emergenza gli ascoltatori e ascoltatrici potrebbero anche avere interesse. Sì. Abbiamo un blog che è appunto semaresistenzefirenze.noblogs e una mail che è resistenze@inventati.org. Resistenze Firenze, @inventati, forse? Mi sbaglio? Forse mi sbaglio. No, sbagli. Resistenze@inventati.org. Corretto. E tra l'altro questa email in questi giorni si potrebbe anche scrivere per difficoltà nel uscire di casa, nel fare la spesa, andare a fare commissioni, ecco, come spazi in tutta la città di Firenze ci siamo messi a disposizione per diciamo, il mutualismo di base, quindi un aiuto reciproco, l'aiuto per chi non può uscire a causa del contagio. E quando passerà l'emergenza, ci ritroviamo ogni mercoledì alle 18.30 presso l'occupazione di Viale Corsica. Benissimo, benissimo. Allora rimandiamo a quell'appuntamento, rimandiamo alla mail e al blog, e noi ci sentiamo prestissimo, perché immagino che voi abbiate altri contributi da mandare su Radio Wombat, e lo spazio è a disposizione, è aperto, quindi a prestissimo. Grazie, ciao a tutti e tutti. Ciao, buona serata. Ciao. Ecco, abbiamo sentito Campagne di Resistenza, un esperimento veramente interessante. E a questo punto io cercherò di rimettere un minimo di musica, vi mando un pezzo per alleggerire e poi ci sentiamo per l'ultima telefonata, sempre con i compagni di Via del Leone, che oramai abbiamo del laboratorio di Laddarno, che oramai sentiamo abbastanza costantemente. E ho perso un Nokia 3310, chissà dove l'ho messo, boh, chi lo sa. Ma è esso fondamentale, perché altrimenti non so con cosa mandare la musica. No, vabbè, come si può perdere un Nokia 3310? Eccolo. Non è che voglio fare pubblicità alla Nokia, Mark Knopfler per voi. Roll out here, mister, if you need a little rest. Roll out here, mister, if you need a little rest. Lay me down in Marble Town, a boneyard isn't best. There was a bad bull on the railroad, tried to put me off his train. There's a bad bull on the railroad, tried to put me off his train. Lay me down in Marble Town till the coast is clear again. I hear them a-hollering, we got a man down here, we got a man down, we got a man down here, we got a man down. I'm gonna flip me a cannonball that won't stop for anyone. Flip me a cannonball, I won't stop for anyone. Lay me down in Marble Town, wait till morning comes. I'm gonna roll out here in the tombstone, wait here on my train. Roll out here in the tombstone, wait here on my train. Lay me down in Marble Town, I hope that it don't rain. I still hear them hollering, we got a man down here, we got a man down, we got a man down here, we got a man. Roll out here, mister, if you need a little rest. Roll out here, mister, if you need a little rest. Lay me down in Marble Town, a boneyard isn't the best. Allora, si è venuto a creare un dibattito sui Nokia 3310. C'è chi dice che sono un brocco, c'è chi dice che sono un grande. Io un po' mi associo a chi dice che sono un grande e prendo la sollecitazione. Vedrete alla prossima apocalisse, quando cadrà internet i vostri smartphone, cosa ne farete, eh? Sarete pronti? Probabilmente, non lo so, ci faremo le zeppe per i tavoli o per gli armadi, non lo so. E comunque, una cosa la possiamo dire, che nel mondo post-apocalittico resisteranno le radio e i Nokia 3310. Detto questo, chiamo subito l'altro contatto, perché è da un po' che mi punzecchia dicendo: oh, voglio andare a fare la doccia. E mo lo chiamo, va. Pronto? Sì. Eccoci. Eccoci, ciao. Scusa il ritardo, ma le nuove dirette Wombat sono sempre un casino da articolare. Senti, allora, ti chiamo in merito un po' alla questione. Ho appena parlato con Resistenze e hanno fatto cenno, hanno spiegato un po' anche la disponibilità nell'aiutare le persone che abitano intorno a noi. Hanno messo su, attraverso un indirizzo mail, la possibilità di portare le spese a domicilio, cosa che ho visto che sta succedendo anche in San Frediano e in di là d'Arno, giusto? Sì, esatto. Noi con l'occupazione di Via del Leone e il laboratorio di là d'Arno, insieme ai banchi del calcio storico, abbiamo organizzato una rete, una chat in cui ci coordiniamo, e ormai siamo già a qualche decina di spese segnate, così pesando possibilmente l'acquisto dalle botteghe locali, che sono, ovviamente stanno subendo di più, certo. Stanno facendo il proprietario busco la questione, e stiamo facendo così. In realtà non stiamo coprendo nemmeno su San Frediano, ha fatto le consegne perfino a Scandiccia. Ecco, nel caso uno avesse bisogno, dove può contattarvi? Nel caso avesse bisogno può contattarci ai numeri di Moscia. Ti sento molto male. Pronto? Non c'è niente da fare. Ecco, ora ti sento bene. Ok, e allora non posso guardare i numeri sul computer, comunque li troviamo, immagino, alla pagina Laboratorio di Laddarno? Sì, li trovate sulla pagina Laboratorio di Laddarno, dell'occupazione, che all'interno dei gruppi di Firenze, l'emergenza Covid-19, l'emergenza, insomma, i vari che sono nati per coordinarsi su tutte queste questioni. Ecco, bene, e fra l'altro io ho visto che l'occupazione del Via del Leone è molto attiva, nonostante questo ha fatto dei comunicati. Ora ce n'è uno che risale a qualche giorno fa, per l'appunto si parla di movida che direi che si può dire in un certo senso risolta in questi giorni, non c'è nessuno. Com'è l'Oltre Arno, cosa sta succedendo in Piazza Tasso soprattutto, visto anche la complessità della piazza, la presenza di tante persone che non hanno una fissa dimora? Sì, guarda, scusa, anche io ti sento male. Alla questione della movida, vabbè, appunto, diciamo che in questi giorni poi si è di fatto risolta da sola, però ecco, in seguito a diversi avvenimenti, da posizioni di cancelli per chiudere strade pubbliche, farle diventare private, comunicati fatti da gli anziani dei quartieri lamentandosi, così abbiamo sentito di doverci esprimere, e non mi dilungo, vi rimando poi casomai al testo, se per chi volesse approfondire appunto sulla pagina dell'occupazione, però ci siamo sentiti in dovere, in quanto giovani fiorentini, a esprimerci sulla questione e a mettere in chiaro che quello che va avanti non è uno scontro generazionale, ma uno scontro di classe. Il problema di Firenze non sono i giovani, ma una gestione della città che concentra tutti i locali nella stessa zona e che poi li riempie, li fa scoppiare di turisti. Quindi è per questo che... Nello scontro di classe fra chi si può permettere i birrini nelle birrerie a 10 euro e chi invece si può permettere i birrini in bottiglia sulle gradinate. Esatto. E alla fine, appunto, per quanto i locali siano quelli, e si emerge poi dai documenti, dalle elementari dei residenti, quanto chiaramente le persone nella maggior parte dei casi abbiano, cioè sappiano che la colpa non è dei loro nipoti, però poi è fin troppo facile, ecco, strumentalizzare, per cui ci sembrava importante ribadire alcuni concetti. E rispetto alla situazione attuale in Piazza Tasso, ovviamente parlando del contagio, è abbastanza critica, nel senso che sebbene le strutture siano ancora aperte, tutti senza fissa dimora sono in una situazione di difficoltà, perché comunque continuano a vigere le stesse regole, per cui loro non hanno una casa dove stare e sono costretti a stare fuori all'abbraccio e quindi più probabilmente a indebolire il proprio sistema immunitario, più probabilmente prendere il virus. In più ovviamente stanno insieme, perché dovessero stare fuori pure da soli. Quindi è evidente che sono in una situazione di difficoltà, però noi col quartiere abbiamo visto comunque una bella attivazione. In questo momento le mamme stanno diverse appunto mamme del quartiere stanno finendo di cucire mascherine, ovviamente non certificate, ma che dopo essersi consultati con dei medici ci hanno detto sarebbero comunque state di qualche utilità, delle mascherine fatte in casa per gli ospiti dell'albergo popolare. Ecco. Quindi domani dovremmo aver pronte queste 200 mascherine gliele andremo a consegnare per cercare di limitare il più possibile. 200 mascherine sono fra l'altro all'incirca la capacità di ospitalità dell'albergo popolare, che ho visto, è uscito un articolo oggi che diceva che fra l'altro sono preparati ad accogliere ulteriori persone. Comunque, no, mi veniva in mente che probabilmente non ci sono mai state tante case vuote come oggi a Firenze, se penso alle migliaia di Airbnb che sicuramente sono vuoti e sarebbero pronti ad accogliere le persone che invece una dimora non ce l'hanno. Sì, sicuramente questa potrebbe essere un'ottima idea. Già abbiamo visto, insomma, in più città d'Europa si sta creando un forte movimento su questa cosa e questo potrebbe essere, ecco, sì, un po' la goccia che fa traboccare il vaso e un'occasione da sfruttare per rendere ancora più evidente la contraddizione che ci viene posta davanti da questo contagio, questa pandemia. Bene, dai, ti lascio alla cena e magari poi ci risentiamo più con calma. Grazie per il tuo contributo. Molto volentieri, grazie a voi. A presto e in bocca al lupo a tutta Sanfrediano e a tutto il di là d'Arno da parte di Radio Wombat. Crepi il corona. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, a presto. E abbiamo sentito anche le voci dal di là d'Arno. A me non resta che sollazzarvi ancora con un po' di musica e magari a dei volumi accettabili. Eccola qua. sulla voce di Tom Waits, io mi avvicino alla chiusura. Scusate, mi si stava spingendo la stufa e ho dovuto metterci dentro un paio di ciocchi. Non mi resta altro da fare che ragguagliarvi su quanto succederà domani, domenica 15 marzo. Il calendario è speciale e vedrà ben due repliche della trasmissione che state ascoltando. Una alle ore 7.30 e una alle 12.30, sono le dirette speciali che vanno in onda. Le repliche delle dirette speciali che vanno in onda in diretta ogni sera alle 19 e vengono replicate la mattina alle 7.30 e all'ora di pranzo alle mezzogiorno e mezzo. Però alle ore 10 abbiamo musica leggera per tempi pesanti, sono raccolte di letture, no in verità sì, sono delle raccolte di playlist fatte da un'ascoltatrice che ce le ha mandate, grande grande grande, tanti baci, tanti abbracci. Alle ore 12 il ormai consueto notiziario anticlericale di Pierino Marrazzani. E poi alle 15 l'Accademia della Brusca sarà una replica, alle ore 16 avremo contenuti speciali a sorpresa, alle 18.30 la Fuga del Gatto diretta speciale che andrà avanti almeno fino alle 20.30, anche 21, alle 23.30 la replica dei Uhuru. Tenete d'occhio il palinsesto speciale, lo trovate nell'articolo in evidenza, il primo articolo del blog wombat.noblogs.org, perché è in continuo aggiornamento, lunedì ancora è in costruzione e così via discorrendo. Naturalmente vi invitiamo a scriverci per qualsiasi cosa, la mail posta wombat@insiberia.net, ma potete... Beh, di tutto, riceviamo di tutto in questi giorni. E niente, direi che per stasera abbiamo dato e ci vediamo, ci sentiamo, anzi prestissimo. E niente, che vi devo dire? Wombats.